di nuovo in scena alle 8:35 minuti, quindi puntuali per la rubrica al Breakfast Club. Parliamo questa volta di un appuntamento che sarà a fine weekend, domenica 19 maggio 2024, ovviamente alle ore 19 al Pala Pilastro. Per la precisione vi dico che è in via Pirandello 17 a Bologna. I Fiori Blu Art Factor presenta Lumi, secondo studio, ispirato, qui mi emoziono, mi alzo in piedi per citare Le Metamorfosi di Ovidio. Poi vi racconterò, è stato anche criticato se non che censurato in maniera importante dal potere all'epoca. Vabbè, sapete la mia passione per l'epica, il mito e la classicità. Comunque, bando alle mie ciance, portiamo in diretta Martina Palmieri, alla quale do il buongiorno. Buongiorno, bentornata Martina. Buongiorno, buongiorno. Allora, questo lavoro qui mette insieme, nelle citazioni riportate che ho letto, anche parti di Pugilato con un grandissimo Muhammad Ali, una citazione dal film Million Dollar Baby, e ho appena parlato di Ovidio, quindi adesso lascio a te questo round per approfondire tutto ciò, Martina. Sì, beh, visto che hai accennato al Pugilato, posso dire che, diciamo, all'interno di questa formazione, no, di teatro e musica, in realtà i Fiori Blu è proprio nel cuore, diciamo, di questo progetto, i Fiori Blu, che vive da molti anni, dal 2012, appunto il cuore di questo progetto è proprio una formazione teatrale musicale, e questi, diciamo, ultimi due anni uno dei performer è anche, no, un istruttore, diciamo così, di Pugilato. Noi lo chiamiamo sensei all'interno del laboratorio, e quindi da lì è iniziata proprio una maniera molto naturale, no, questa formazione, anche direi abbastanza seria, e quindi è entrata a far parte poi delle azioni, no, più teatrali, e quindi, insomma, questo lavoro su Ovidio si è avviato già, diciamo, nell'anno precedente, no, il 3 dicembre dell'anno nel 2023 abbiamo presentato Inclinazioni, che è il primo studio sempre ispirato alle Metamorfosi, e continuiamo in realtà questo cammino che sembra infinito, no? Che appunto in questo attraversamento delle Metamorfosi travolto da più angolature. E quindi adesso diventato, magari dico due parole, no, sui Fiori Blu, questo progetto che coinvolge, appunto, rispetto alla formazione, persone che possono accedere alle misure alternative alla detenzione o alla pena, educatori, educatrici, insegnanti, insomma, diciamo, in genere a operatori e operatrici che lavorano, no, nell'ambito del sociale, sì. Performer con più o meno esperienza anche con disabilità, e quindi negli anni è una vera e propria comunità artistica che sta aprendo sempre di più le porte, chiaramente. E quindi cosa succederà? Cosa succederà il 19 maggio? Che siamo entrati, proprio da dire, in il Pala Pilastro, che è un centro di formazione, proprio di pattinaggio, che, tra l'altro, devo ammettere la mia ignoranza, noi non conoscevamo a Bologna, non sapevamo che c'era questa così tradizione, no, di pattinaggio. E quindi abbiamo incontrato loro. All'interno dello spettacolo ci sono anche degli interventi di alcune giovani pattinatrici. È difficile raccontare. No, anche perché me ne rendo conto, però è affascinante, anche se difficile da raccontare. Sì, è affascinante, sì. Immaginare questo, sì, lavoro ispirato ai classici, sì, greci, tra l'altro, sì, l'unico probabilmente scritto poi in latino da Ovidio, che, come, sì, ho detto, ha avuto diversi, sì, problemi, perché criticava, sì, i protagonisti, le divinità non ne uscivano in maniera specchiata, sì, anche, sì, Augusto non era certamente felice di tutto ciò, e quindi, certo, è un argomento che può essere anche riportato ai giorni nostri, ma bando, sì, alla critica. Ho detto, sì, ho sentito hai che hai colto, detto, hai colto in pieno anche un po' la prospettiva con cui noi, no, abbiamo guardato quest'opera, nel senso che sicuramente ci sono degli aspetti, posso anticipare con molta, certo, con molta sincerità che insomma il nostro è un, diciamo, uno sguardo, una prospettiva molto queer. Ecco, questa è la lettura che noi, no, noi performer hanno dato. E anche, diciamo, tra virgolette, consulenti esperti di metamorfosi, il lavoro è stato un po' questo, un po' è venuto naturale, un po' no, e quindi in realtà i performer hanno sicuramente dato voce a tutta una serie di questioni che lì e le riguardavano, ma che sicuramente danno appunto ritornano una voce sicuramente tutta contemporanea, no, questi miti, quindi dal tema, diciamo, dell'oppressione, al tema della qual è la condizione, soprattutto, no, ecco, ci sono anche questioni di genere, no, tra relazioni particolari tra Apollo e Daphne, sì, tra Narciso e Eco, cioè abbiamo un po' di, in realtà, no, sono storie stupende, sono oltre che storie, per me sono vite. Sì, infatti questa è ragione, sono oltre che storie, tanto che devo dire che all'inizio anche non è facile da leggere, da comprendere, no, quest'opera, ma perché è talmente, è molto bella, ma anche proprio come dire, l'uso delle parole sono una cosa. Sì, ma c'è tutto. Io la trovo estremamente anche sensuale. Ci sono storie d'amore bellissime, fra l'altro, sì, più delle volte, certo, maledette, punite da queste divinità severe. E sì, quindi tra l'altro questi miti si massacrano, in realtà. Sì, severissimi, fra l'altro. C'è la storia di un massacro, ma c'è anche dentro, c'è tutto, c'è una strana ironia, no? Perché poi dopo tutto riportato ai nostri tempi è anche difficile, no, da leggere, però è veramente una delle opere più contemporanee che abbiamo, certo. Ascoltiamo un po' di musica, puoi restare due minuti in diretta, poi rientriamo. Sì, certo, intanto ti ringrazio, Martina. Ricordo, i Fiori Blu Art Factory presenta Lumi, secondo studio ispirato alle metamorfosi di Ovidio, domenica 19 maggio alle ore 19 al Palapilastro in via Pirandello 17 a Bologna. A tra poco. Oggi 17 maggio, ribadisco, giornata internazionale contro l'omo, lesbo, transfobia, e diamo una continuità a questi contenuti. Sto migliorando, perché ci sono acronimi, abbreviazioni, dove ogni tanto io cado in inciampo nelle parole estese, figuriamoci in quelle che diventano crasi oppure acronimi, però pian pianino sto migliorando, ecco. Sei Martina? Sei ancora? Sì, eccomi, okay, qui. Perfetto. Sì, certo. Allora, si prende spazio con la performance, movimento e voce in un luogo speciale, solitamente destinato ad altri usi, e questo è un motivo in più di stupore e curiosità, sprigionando elementi del corpo atletico in dialogo con il corpo extra-atletico, in assonanza con le pratiche pugilistiche e di pattinaggio. E in un momento, guarda, di estremo agonismo, a volte anche interpretati in maniera maniera negativa, sì, dare una parte di bellezza al movimento sportivo e dare una sua non spettacolarizzazione ma spettacolarità a questi contenuti, sì, che si possono trasformare. Io sono un ex atleta professionista di pallacanestro e ricordo sempre che per omoni enormi, altissimi, la pallacanestro, essendo eseguita in così poco spazio, diventa come un balletto per certi movimenti, eh? Certo, è una sorta di balletto. Beh, un atleta, un cestista, seppur alto e scoordinato, è difficile che non sappia ballare. Per questione di tempi e di spazi e quant'altro. Comunque, bando a queste apologie fuori tema, fino a un certo punto, perché vi sarà, da quel che ho capito, un'espressione variegata culturalmente, molto e oltre interessante, ispirato alle metamorfosi di Ovidio, i Fiori Blu Art Factory per Lumi, secondo studio, al Palapilastro, e ci colleghiamo anche con l'appuntamento iniziale di cui ho dato presentazione, le periferie, che riempiono i nostri cuori, ma oltre che la poesia, il teatro, la performance, il palcoscenico in periferia è un fondamentale. Penso che sei d'accordo con me, Martina. Assolutamente, sempre di più per noi. Penso che questo progetto, in realtà, cioè l'esito, no? Le produzioni artistiche hanno sempre attraversato molti teatri, no, di Bologna. Quest'anno abbiamo proprio fatto una scelta molto chiara, direi. E appunto stavamo parlando proprio di questo, di che cosa ci offre, no, questo studio Lumi, uno sguardo sicuramente rovesciato sulle posizioni di genere, no, suggerendo un gioco di capovolgimenti degli stereotipi già in movimento e in evidenza nell'opera di video, quindi è un po' questa l'operazione. A volte sicuramente ci sono momenti molto intensi, altri momenti in cui si sorride spesso, e questa connessione, no, anche questa assonanza e dissonanza con il movimento sportivo, no? Sì. È interessante, siamo sicuramente solo all'inizio, sempre di più negli anni questa componente entra, no, nel lavoro, quindi capiremo anche cosa vorrà dire per noi, tra l'altro anche in relazione con dei corpi, diciamo, che sono fanno parte di una bellezza non conforme, no? Che per noi invece è una loro estetica, è lo splendore, sì, vero, no? E non è facile riportare questo aspetto in scena, anche qui c'è una lunga ricerca e la continueremo in questo senso. Il diversamente normale, che come spesso definisco, diventa motivo di fascino ancora di più che un aspetto stereotipato. Sì, allora, sì. E poi forse c'è ancora bisogno, no, di avvicinare il nostro sguardo a dei corpi, ah, certo, che non rientrano appunto, no, nel nostro immaginario, no, sì, come bellezza, invece è quello che ci chiede anche questo tempo, Un motivo di valore aggiunto. Chiudiamo con Gruppo Elettrogeno, onore al merito a Gruppo Elettrogeno anche per questa organizzazione, questo lavoro e questo studio. In conclusione, per contattarvi, Martina, diamo qualche indicazione anche su questi amenicoli online, dai, ci sono anche loro, citiamoli. Sì, allora abbiamo naturalmente il nostro sito, quindi gruppoelettrogeno.org. E poi sicuramente molte informazioni le trovate anche sulla pagina Facebook di Gruppo Elettrogeno, che lo trovate con Gruppo Elettrogeno Teatro, e lì ci sono tutte le molte informazioni. Naturalmente lo trovate anche su Instagram, e direi queste le informazioni. Per acquistare, diciamo, la prevendita dei biglietti, trovate sempre su Viva Ticket, è possibile acquistare il biglietto appunto visitando Lumi, secondo studio, su Viva Ticket, e trovate tutte le informazioni. Domenica 19 maggio, ore 19, Palapilastro, via Pirandello 17, sì, Lumi, secondo studio, i Fiori Blu, sì, Art Factory presenta questo lavoro ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Io ti mando un caloroso abbraccio, grazie per grazie questa presentazione, e al prossimo appuntamento, Martina. Benissimo, grazie. A voi, grazie. Ciao. Spinning like those crazy Kerouac days of oh so long ago, so long, long, long ago. 8 e 50 minuti, ricordo alle 11.30 l'ultima probabile puntata di Jazz Live, termina così in scena del Breakfast Club, vigilia di weekend, vi lascio in compagnia delle DP Enciclopedico a seguire Liberi Dentro e vi auguro un buon ascolto e un buon weekend per le mattiniere e i mattinieri alle ore 7, mi raccomando puntuali per far colazione assieme, ma intanto godiamoci il weekend, pare anche accettabile meteorologicamente e quindi un abbraccio e grazie per l'attenzione e un buon ascolto dal vostro William Piana, ciao a tutte, ciao a tutti.